Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica! Buona domenica a tutti! Si comincia a essere un pochettino abbronzati, un bel po' di carnagione ambrata che non fa mai male, che nasconde un po' tutti i difetti. Vabbè, ci vuole la vita all'aria aperta, come ci dice il professor Berrino, che noi stimiamo tanto, no? Fa bene la salute. Pare che lo sviluppo di vitamina D sia un potentissimo antitumorale ed è anche responsabile del buon umore. Vedi, per quello io sono sempre allegra, perché sono terrona, ho la carnagione già scura di mio, poi sto al sole, meglio di così. Allora, per chi ci volesse scrivere, chiedimi se sono felice, @radio24.it, noi reggiamo sempre le vostre mail, appena possiamo vi rispondiamo e appena possiamo vi coinvolgiamo anche in radio. Abbiamo delle notizie importantissime da darvi, quindi partiamo con la GR a quattro zampe. Notizie a quattro zampe. Eccoci, allora ne abbiamo un paio, una riguarda l'estinzione di massa, pensa sì. te, e l'altra riguarda il fatto che i pulcini negli Stati Uniti non verranno più tritati, anzi partirei da qui, praticamente dal 2020 non ci sarà più bisogno di tritare i pulcini vivi, perché il punto che cos'è? Che ci sono... No scusa, perché detta così, tritare i pulcini vivi sembra una barzelletta, ma è una roba allucinante. No, purtroppo è così, cioè tu quando vai a comprare le uova al supermercato devi sapere che hai preso queste uova dalle galline ovaiole, perché ci sono due tipi di galline, sì. quelle da carne e quelle ovaiole, no? La vita del gallino ovaiole funziona in questo modo: selezionano i pulcini appena nati, quelli maschi li buttano via e muoiono su reti elettrificate o soffocati in macchinari che li soffocano, oppure tritati. Dio, che spavento sentire tritati, questi pulcini così teneri, piccoli, tritati direttamente, no? Così. E mentre gli altri, che sono le femmine, vanno messe nella filiera delle galline ovaiole, che non se la passano così bene. Però negli Stati Uniti hanno preso una decisione molto importante su pressione della Human League, in cui utilizzeranno praticamente delle incubatrici che determineranno a priori il sesso delle galline. E quindi praticamente manipolazioni? Non ci sarà, sì, perché a seconda della temperatura tu puoi decidere a priori se il pulcino diverrà maschio o femmina, questo è quello che credo di aver capito. E quindi diventeranno tutte femmine e quindi non ci sarà più bisogno di... Un mondo al femminile, speriamo che sia femmina. Ma scusa, in tutto ciò, che vita di merda fanno ste galline? Noi sappiamo che, insomma, io l'ho visto filmato, dove le galline gli tagliano il becco, vivono in gabbie grandi quanto il foglio A4. Però a parte questo, questa mi sembra una buona notizia, io spero che venga ripresa anche da altre parti del mondo. Mentre l'altra bella notizia è, si parla di questo film che vuole fermare la corsa all'estinzione, si intitola Racing Extinction, del premio Oscar per il docufilm famosissimo The Cove di Oscar Louis Psihoios, credo che si legga così. Sì, o Psihoios, no? Insomma, non sappiamo bene come si legga questo, sì, però esatto. Sembra un genio, perché ha vinto l'Oscar per The Cove, no? Che ha fatto tempo fa, adesso propone questo nuovo film, è stato proiettato alla Camera, pensa. A Roma, alla Camera dei Deputati. Pensa che lui è presidente dell'Ocean Preservation Society e lui nasce come fotografo. Lui veramente è uno di quei fotografi che insegna appunto l'importanza di uno scatto a livello sociale, cioè non è casualmente uno che si occupa di problematiche sociali. Pensa che nel 1981 fece il suo primo scatto, che fu pubblicato dal National Geographic, sulla spazzatura, dove quando in America della raccolta differenziata non si sapeva praticamente niente, non si sapeva ancora nulla, quindi lui è molto attento alle tematiche sociali. Allora ringraziamo Paolo Bernini, perché è il nostro deputato del Movimento 5 Stelle, che ha preso questo documentario e l'ha portato alla Camera. Hanno fatto anche delle altre belle cose su iniziativa appunto di questo regista così bravo, perché ha proiettato le immagini di questo documentario per esempio sull'Empire State Building, sì, anche in Vaticano, oppure sulla Basilica, anche di San sulla Pietro Basilica a Roma di San Pietro. Ma fra l'altro ti volevo dire, sai che lui come ha fatto a riprendere, lui per esempio ha fatto vedere delle immagini atroci della mattanza dei delfini alle isole, quelle lì giapponesi, alle isole Taji, credo che si legga, in Giappone. Lui ha praticamente nascosto delle micro telecamere in mezzo agli scogli, in modo da poter riprendere purtroppo quella mattanza. Praticamente è come se Una baia diventa tutta rossa di sangue, praticamente. Sì, per far vedere agli uomini quando diventano maggiorenni che sono forti, no? Capisci la mentalità? Volevo dire che entro la fine del secolo, documentato da ricerca scientifica riportata in questo documentario, perderemo circa metà delle specie viventi. Quindi si tratta di una sesta estinzione di massa, causata però in questo caso dall'essere umano. Per lo più è causata questa cosa dal consumo di carne. Ascoltate bene, il consumo di carne. Quelli che dicono a me non me ne frega un cazzo. Recenti ricerche scientifiche, consuma meno un vegano in automobile che un carnivoro in bicicletta. Quindi la cosa che noi dobbiamo, anche se vogliamo continuare a mangiare carne perché a noi ci piace, quindi ma a me piace la carne, però devi renderti conto che questo tuo stile alimentare, che è tutto occidentale ed esportato dall'Occidente recentemente anche in Oriente, sta distruggendo il pianeta. C'è anche un esportando le cose peggiori invece che esportare le cose migliori. C'è anche un legame spesso sottovalutato tra terrorismo e distruzione dell'ecosistema, perché come ci fa notare il Raffaele Pio Mincione del Corpo Forestale, l'ISIS finanzia per esempio in Africa un traffico illecito di 200 miliardi di dollari annui di avorio, carbone dalla deforestazione e legno tropicale. Rischiamo di non vedere più i paesaggi della Toscana fotografati da Gianni Berengo Gardin. Quindi, insomma, quello che stiamo facendo, cioè continuare a consumare carne fottendocene, rischia di far sparire metà delle specie, vuol dire che è a rischio tutto l'ecosistema significa anche le piante, quindi addio, per esempio, bellezze come la Toscana. Complimenti! Allora, io volevo leggerti sempre riguardo questo film, sempre riguardo a Luis C. Hoyos. Gli hanno chiesto, infatti, quando gli hanno fatto l'intervista, gli hanno chiesto, dopo il film The Cove, il suo primo film, ora c'è Racing Extinction, quello di cui stavamo parlando adesso, quali sentimenti si attende di generare negli spettatori? Sì. Perché questa è una bella domanda. Amore per il pianeta, rabbia, indignazione, oppure speranza e desiderio di agire, di fare qualcosa? Perché questo è il punto. È lui anche che ha detto. Lui ha risposto, siamo in un'era che è stata chiamata antropocene, la prima in cui l'umanità sta realmente trasformando il pianeta. Non è facile parlare in un film, perché le persone tendono a rifuggire da informazioni come queste. Quindi direi innanzitutto consapevolezza, coscienza, e poi spero ispirazione, per dare a tutti la forza di agire, di fare qualcosa. Benissimo, allora andate su internet e cercate questo film, è stato già visionato da 36 milioni di persone nel mondo grazie a Discovery Channel. E ora il traffico. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci qui di nuovo, sempre pronti. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Allora, volevamo con Angelo fare un po' di considerazioni su quello che è successo un po' di giorni fa, una decina, una quindicina di giorni fa, a Ragusa, di quel cane che ha aggredito un bambino di 7 anni e che l'ha preso alla guancia. Allora, intanto capire bene l'aneddoto, quello che è successo, perché poi si dicono un sacco di cose, i giornali non vedono l'ora di creare il panico su sta roba io qui. Io ho qui davanti, per esempio, il giornale di Sicilia, parla appunto di Ragusa, a grandi linee vi spiego quello che dicono i giornali, dopodiché saremo in comunicazione con Paola De Lucia, educatore cinofilo ragusano, così che ci possa dare maggiori informazioni. Ne approfitteremo anche per capire come funziona la relazione tra cani e bambini, in modo che i nostri bambini, quando vanno in giro nei parchetti a giocare, così come è successo a questo bambino, non si prendano morsi in faccia dai cani. No, infatti, anche perché questo cane era abituato in questo giardino pubblico ad andare a passeggio con la sua padrona, andare anche senza guinzaglio, dove c'erano bambini abituati che si conoscevano, cioè il cane conosceva i bambini e i bambini conoscevano il cane. No, io intanto c'è proprio una dinamica, no, di queste cose qua, perché già se uno legge le notizie, per esempio il titolo tipo, che è questo qua che è qui davanti, è bambino azzannato al viso da un cane a Ragusa, operato d'urgenza. Esatto. No? Allora, e questa roba qua stimola immediatamente una reazione da parte di tanti genitori, ma anche da parte di chiunque legga il giornale, come per dire maledetti cani. Esatto, invece non è così, perché come vi dicevo, i bambini conoscevano questo cane, erano soliti trovarsi in questo parco. Quella mattina non giocavano solo a palle, i bambini giocavano anche con delle pistole o dei fucili ad aria compressa. Lo scoppio e il rumore di queste armi per giocare, questi giocattoli, ha praticamente spaventato a morte il cane. Che cosa ha fatto? Ha iniziato a scappare terrorizzato verso casa. Questo bambino in modo particolare ha iniziato a inseguirlo, non si sa se per tranquillizzare il cane o per continuare a giocarci in quel modo, senza rendersi minimamente conto che il cane in quel momento era terrorizzato. Ha ben pensato di bloccarlo prendendolo per la coda. Quando il cane si è sentito tirare per la coda e stava scappando terrorizzato, si è voltato, ha dato un morso, la prima cosa che ha trovato purtroppo era la guancia del bambino, ed è scappato verso casa. Ora sorgono un po' di domande. La madre del bambino dov'era, per esempio? per esempio, perché non si insegna ai bambini? La madre del bambino era a casa sua, come è giusto che i bambini possano andare in giro a 10 anni a giocare. Bene, bene, perfetto. Perché non si insegna ai bambini a rispettare gli animali, a rispettare i cani, a non tirargli la coda, a sapere che certi giochi non vanno fatti con i cani e a capire che i cani sono esseri viventi che hanno anche loro delle paure? Allora, ci abbiamo in linea con noi Paola De Lucia, che ci spiegherà tutto ciò, perché tu sei... Paola, ci sei in linea? Sì, ci sono, buongiorno. Ciao Paola. Allora, Paola De Lucia è educatore cinofilo, abita a Ragusa ed è stata lei poi a raccontare... Cioè, tu quello che vi ha raccontato adesso Rosita, ce l'ha raccontato Paola dietro le quinte, perché ovviamente sui giornali non ho visto più riportate effettivamente le notizie così come stavano. No, quindi, certo. Ha riportato fedelmente, Rosita, le cose come sono andate? Beh, sì, più o meno sì, e la storia è quella, ho cercato delle informazioni ben precise da fonti attendibili e sono quelle. Ok, quindi ricapitolando, succede che i bambini giocando spaventano il cane se ne voleva andare, il bambino l'ha trattenuto per dirgli no, tranquillizzati, stai qua, e il cane si è girato, gli ha morso la guancia, gliel'ha spartato. È morto, sì. Già, ora che così. Succede al cane? Allora, il cane nell'immediato è stato, evidentemente ci sono state delle denunce, come in questi casi accade, ed è stato ricoverato nel rifugio sanitario di Ragusa, e sottoposto a visita veterinaria e controlli comportamentali, che hanno detto che il cane non è un soggetto assolutamente pericoloso. Aggressivo e pericoloso. E ha dato semplicemente una risposta difensiva e certo. Fortemente emozionale, era in uno stato di ansia e di paura, dunque aveva fatto la saggia scelta di togliersi dalla situazione, ma purtroppo trattenuto la sua reazione in quello stato emotivo particolarmente forte è stata quella di mordere un cane. Certo. Certamente. Allora io pare che oggi, trascorsi 10 giorni, il cane potrà ritornare a casa. Finalmente. Dalla sua proprietaria. Finalmente. La quale tra l'altro è stata molto presente e vicina a Pino, così si chiama il cane. E andandolo a trovare 2 volte al giorno lì nel rifugio sanitario. Allora, cogliamo l'occasione per poter parlare un po' tutto tondo di questa evenienza. Io, per esempio, da papà di una bambina di 9 anni, so, così come sanno molti genitori, che tu quando lasci tuo figlio a casa degli amichetti a giocare nel parchetto e via dicendo, immagino che a Ragusa sia una situazione anche più tranquilla di una città come potrebbe essere Milano o Roma, no? Dove c'è un parchetto frequentato da bambini ed è normale che i genitori non siano sempre lì presenti col fiato sul collo dei bambini. E quindi è normale, da genitore so, che se mia figlia esce e va sullo skateboard e gioca a palla e va in bicicletta e va sullo scivolo, e cioè a volte capita che uno si cade, ci sono i bambini che si rompono il braccio perché cadono dallo scivolo, quello che gli dà lo spintone cade per terra e si rompe il dente, litigano tra di loro, cioè insomma il bambino può attraversare la strada e essere investito, cioè sono delle evenienze a volte queste qua che capitano e un genitore deve mettere in conto, e non è neanche giusto star lì con la campana di vetro, no, sul bambino, perché altrimenti il bambino non cresce bene. Tra queste cose ci sono i cani, ci sono sempre stati, quindi non è il primo bambino che si prende un morso. Il punto è, se noi sapessimo educare, magari con la scuola, io adesso lascerò parlare Paola perché da quello che ho capito si sta movimentando anche a Ragusa anche questa evenienza qui, però se io educo i bambini anche a scuola ad avere un comportamento corretto nei confronti dei cani, evito questi problemi qua. Sì, certo. Anche perché... Quindi il cane non è il problema, non è il cane è un cane a posto, non è un cane aggressivo, non è un cane killer, è un cane come tutti gli altri che se tu trattieni in una situazione che per lui è difficile in qualche modo si deve difendere. No, ma poi se stava scappando, voglio dire, cioè più chiaro di così. Lì come si dice, purtroppo i genitori non hanno ancora, pensano che sia da sottovalutare il fatto di educare i figli a portare rispetto agli animali, ai cani, a non tirargli la coda, a non spaventarli, come a non tagliare la coda alle lucertole, a non giocare, a fare tutti questi giochetti strani che purtroppo come i bambini si fanno. Come anche io qualcosina la direi anche a chi lascia i cani liberi e incustoditi, perché per quanto il tuo cane possa essere bravo, quando c'è un'interazione con i bambini, noi sappiamo che bisogna sempre supervisionare, anche quando il cane è di casa. Quindi se tu, il tuo cane se ne va in giro, tu stai lì, perché se vedi una situazione come quella, cioè, se fosse stato qualcuno avrebbe detto al bambino no, non lo trattenere, il cane me lo porta a certo. casa. Avremmo no, anche proprio per tutelare il cane stesso, perché non sai mai coi bambini che cosa, che fine possono fare i cani. Avremmo voluto tra l'altro intervistare anche i vigili urbani, i carabinieri del posto, il sindaco, eccetera. Abbiamo cercato anche la proprietaria del cane, ma nessuno ha voluto intervenire. Il comune, il sindaco non ha voluto intervenire, i vigili non hanno, cioè i vigili, la polizia non ha voluto intervenire. Quindi, insomma, vabbè. E questo è. Quindi Paola, ho capito male o si sta movimentando qualcosa per portare l'educazione, non so, zoantropologia didattica nelle scuole? Sì, sì, sì, certamente qualcosa dovrà muoversi necessariamente, perché proprio questi fatti, che purtroppo non accadono così raramente, ci capita spesso di imbatterci in queste situazioni, ci dicono quanto sarebbe importante prevenire, guidando i bambini ad un corretto approccio con il cane. Ecco, vedi, che poi... Quindi, tra l'altro, da educatore cinofilo, io e Paolo ci conosciamo da diversi anni, da educatori cinofili noi diciamo, non è soltanto un prevenire un problema che può accadere, il punto è che la relazione col cane può essere addirittura una risorsa. Certo. Allora vale la pena di capire quali sono i limiti e i rischi, e dall'altro lato anche quindi come fare a formare a sviluppare maggiormente magari l'intelligenza sociale di un bambino attraverso la relazione col cane. E quindi sì, insomma, assolutamente sì. Ci si sta muovendo da questo punto di vista. Senti Paola, peccato che l'essere umano sempre dopo una tragedia decide di muoversi, no? Quando succedono le tragedie, anche più di una, allora decidi di fare qualcosa. Finché non succede qualcosa di tragico, l'uomo non si decide a fare un tubo. Sì. Aspetta, Rosita, ma sempre? Quasi sempre. No, mi sta prendendo in giro perché ho fatto un corso di eccellenza linguistica capisci? Vabbè, scusami Paola, ti abbiamo interrotto, dimmi. Sì, dico, sarebbe indispensabile fare una seria proposta educativa che dovrebbe coinvolgere tutti quei centri che accolgono i bambini, dalle ludoteche alle librerie, ai campus estivi, e proprio all'interno di un campus estivo, di un grosso centro sportivo che è qui a Ragusa, che io ho iniziato degli incontri con una decina di bambini che sono stati iscritti a questo campus e che loro e i loro genitori hanno scelto di far partecipare i bambini a questi incontri in cui io e un operatore cinofilo guidiamo i bambini alla conoscenza del cane, alla conoscenza del linguaggio del cane e all'approccio corretto attraverso il gioco. È un momento altamente educativo e formativo per i bambini attraverso la relazione con il cane, oltre la conoscenza proprio del cane individuo, come funziona il suo linguaggio, conoscere l'importanza di regolare i toni di voce, l'importanza rispettare le distanze, di rispettare le risorse del cane. E devo dire che è stata una bella esperienza. Ora, hai avuto una buona risposta da parte della gente? Sì, assolutamente sì. C'è tanta gente che si ferma intorno a cerchio a cercare di capire cosa fanno queste persone, questi bambini, con dei cani lì e allora, con tanti bambini. Paola rimarrà in linea con noi, come farete voi tra poco, facciamo due minuti di break, perché tra poco parleremo con il dottor Battaglia, responsabile LAV del territorio di Ragusa, ci darà anche delle informazioni su questo, ma soprattutto c'è uno schema che si ripete quando i bambini vengono morsi, lo vedremo tra poco. Carlo Getta, tu cosa ti prendi, Francia o Portogallo? Io mi prendo la Francia che gioca in casa per quest'ultimo atto degli europei, che racconteremo attraverso i microfoni di Radio 24, domenica sera con te, Giovanni Capuano. Chi ti prende a proposito? Io mi prendo il Portogallo, è banale dire la Francia, ogni tanto devono vincere anche gli sfavoriti. Dalle 21, domenica sera su Radio 24, ovviamente con Pierluigi Pardo, tutti convocati. Vi aspettiamo. tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24. Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Rieccoci, buona domenica insieme a Rosita Celentano e Angelo Vaira. Stiamo parlando del rapporto cane-bambino prendendo spunto da un episodio non troppo bello avvenuto a Ragusa in cui un bambino è stato morso alla guancia da un cane, finito il pronto soccorso, il cane in quarantena, via dicendo. Il cane era buono, il bambino pure, quindi ci stiamo interrogando su che cosa fare. Tra poco diciamo che erano stati abbandonati a se stessi, solo il cane e soli anche i bambini. Però c'è una ricetta per far mordere i bambini, alla quale i nostri radioascoltatori saranno interessati, per farlo posto, no, naturalmente. Certo. Però nel frattempo abbiamo al telefono con noi Biagio Battaglia, che è responsabile provinciale della LAV di Ragusa, della provincia di Ragusa, che magari ci può dare qualche informazione in più sul territorio, su come è il rapporto con i cani e con gli animali lì a Ragusa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Cosa ha da dirci sia sulla questione, no, il bambino che è stato morso dal cane, sia magari sui problemi che avete in quel territorio lì specifico, no? Sì, sulla questione specifica, diciamo, del bambino morso da un cane di proprietà e quindi, diciamo, non un cane randagio, certo. È giusto fare la distinzione. Quello che si nota nella nostra provincia è un disinteresse da parte delle istituzioni. Mm. A partire dal comune, ma anche non dimenticando, diciamo, gli altri organi di competenza provinciale. Purtroppo è una lotta impari. Tutti i giorni ci sono decine e decine di abbandoni, e a fronte degli abbandoni c'è una disorganizzazione generale. Sì. Ma senta Biagio, ma cosa dovrebbero fare le istituzioni nello specifico? Cioè cominciare ad interloquire per esempio con la LAV, o c'è qualcosa secondo voi che è proprio mirata, loro possono fare per, insomma, per aiutare la situazione degli animali? Sì, allora la legge regionale che dovrebbe essere applicata in Sicilia è del 2000, quindi è una legge, diciamo, un po' vecchia. Abbastanza buona, diciamo, da un certo punto di vista, perché fu recepita 9 anni dopo rispetto a tutte le altre regioni italiane, quindi si fece una buona legge, diciamo, anche sull'esperienza delle altre regioni. Però in realtà questa legge è priva di finanziamenti e priva di contributi economici. Ma si può sapere in breve che cosa dice la legge a riguardo? Allora, la legge sul randagismo, diciamo sulla tutela degli animali in generale, perché poi la legge è comprensiva di vari aspetti, dà la responsabilità, diciamo l'onere del rapporto fra cittadini e animali al sindaco, all'ASP e poi ad organi come la prefettura. Sulla questione degli abbandoni e sulla questione delle catture, la responsabilità dei sindaci praticamente viene quasi sempre, come si può dire, sviata dalla motivazione che non ci sono fondi a disposizione per questo tema. Per questo aspetto, ma questo aspetto non è meno importante di tanti altri problemi che affliggono la Sicilia e il meridione in generale. Tuttavia ogni volta si interviene sulle emergenze, come avete anche detto voi. Non per niente nella nostra provincia ci fu anche, diciamo, una tragedia con un piccolo bambino che fu appunto vittima di alcuni randagi che erano stati segnalati al sindaco, ai vigili urbani, alla polizia, eccetera eccetera, già da mesi dai cittadini, e per cui poi c'è anche una sentenza di primo grado con la condanna del sindaco e di vari altri, diciamo, soggetti coinvolti. Fra l'altro, ne approfitto anche per parlare un po' di questa cosa da un punto di vista etologico, no? Sì. Questo anche per capire un po' la natura di queste cose qua. Noi abbiamo tre tipi di cani, no, sul territorio. Uno è il cane di proprietà, di cui abbiamo parlato, come per esempio, sì, nel caso di questo cane che ha morso il bambino. L'altro è il randagio. Il randagio normalmente gira in centro paese, non è spaventato dalle persone, è soltanto un cane che è privo della proprietà di un essere umano, quindi vaga, a volte si riunisce in branchi, si mischiano, a volte nel periodo dei calori, e lì possono fare un pochino di confusione. Poi ci sono i cani semiselvatici, come nel caso del 2009, appunto, che Biagio Battaglia ci diceva poco fa, che hanno aggredito un bambino fino addirittura ad ucciderlo. I semiselvatici sono abbastanza particolari perché non avvicinano l'uomo, sono anche geneticamente predisposti a farsi i cavoli loro, e semmai devono intervenire sull'uomo, come abbiamo visto in questo caso, lo prendono come una preda quando è molto piccolo. In questo caso le istituzioni, se hanno timore da livello economico, no, di dover prendere i cani, sistemarli da qualche parte, chissà, le spese eccetera eccetera, possono semplicemente mettersi d'accordo con i volontari e le associazioni di zona per istituire dei responsabili che, con una spesa molto inferiore, possono controllare l'attività di questi branchi, perché questi branchi, tra l'altro, prenderli e metterli in canile gli si fa vivere una vita d'inferno. Assolutamente. Diverso è per i randagi, perché loro potrebbero essere presi, messi in stallo e poi fatti adottare subito, per esempio. Cioè, insomma, si possono coordinare delle azioni sul territorio per cui è meno dispendioso che prendere un canile, rifarlo, costruirlo, metterci dentro la gente, fare la carica, per fare tutta questa roba qui ci vogliono delle persone competenti. No, si vogliono le persone competenti, però basta aprire un dialogo tra il comune, tra le istituzioni, no, e le persone sul territorio, come Biagio e Paola, per esempio. Ah, in questo come caso Biagio qui. E Paola, beh, certo, però... No, scusami Angelo, sì, io su questo posso informarti, comunque il lavoro se ne è fatto tantissimo, sì, sia dalla De Lucia, ad esempio, che avete studio, sia da altri educatori che ci sono nella nostra provincia, attività, vedi, del privato sociale, delle associazioni, eccetera, eccetera. Sulla questione, ad esempio, dei cani randaggi, abbiamo lottato per 15 anni per far sì che il cane di quartiere assumesse uno status chiaro, semplice, e devo dire che in 15 anni nessun cane di quartiere ha aggredito, almeno non abbiamo notizie di questo. Benissimo, tipo. Benissimo questa cosa. Spiegate ai telespettatori, ai radioascoltatori, cos'è il cane di quartiere, perché molti non lo sanno. Cioè, per esempio, qui a Milano non esiste il cane di quartiere. Beh, ma non esiste perché ce li hanno tutti in casa. Intanto il cane di quartiere è un risparmio enorme per il comune. Quindi, diciamo, al di là ora di quello che sia come soggetto, comunque è un grande risparmio. Che cos'è il cane di quartiere? È un cane che vive già in una zona abbastanza circoscritta, un condominio, un cortile, una piazzetta, eccetera eccetera, e di cui i residenti della zona si fanno carico, ecco, in maniera del tutto autonoma, volontaria, gratuita, eccetera eccetera. E quindi semplicemente si prende il cane o la cagnetta, nella maggior parte dei casi, si porta all'ambulatorio veterinario, si sterilizza, si mette il microchip a carico del comune e si rimette nella zona dove praticamente vive in maniera del tutto autonoma. Vedi. Ma poi i residenti, qualche residente magari mette il proprio nome su un modulo dicendo che si occuperà semplicemente del cibo e dell'acqua, non quindi una responsabilità civile, penale, eccetera eccetera, e il cane continua a vivere in maniera del tutto libera. Bellissimo. Vi ricordo il caso di Italo, ecco, infatti stavo Sicile. Per dirlo, cioè, Italo, c'hanno fatto, da c'hanno cui fatto poi un film da cui poi hanno dato il nome anche al famoso treno Italo. L'hanno chiamato in onore del cane Italo di Ragusa. Però, invece mi sembra a Scicli ci sia stato questo caso di questo cane adottato dal paese, e poi ci hanno fatto un film. Sì, questo qua, Italo, è il ecco, cane, è il cane di Scicli, che fu la risposta un po' dei cittadini alla tragedia del bambino ucciso. Cioè, invece di pensarla in negativo quella situazione, a Scicli si consolidò l'idea che comunque l'attenzione doveva essere alta. No, perché vedi, oltre al fatto di costituire un risparmio per il comune, no, il cane di quartiere, sì, uno dice vabbè, però è una roba che dobbiamo tenere là, e invece il cane di quartiere quello che fa è che risolleva le sorti del quartiere, perché tutti ci si affezionano, perché poi te lo ritrovi al bar, perché diventano qualcosa che ti rallegra la giornata quando lo incontri. Secondo me dobbiamo invitare tutti quelli che non hanno visto il film di Italo a vederlo, perché comunque il film è un po' romanzato, diciamo, in alcuni aspetti, certo, ma è molto molto vicino alla realtà. Tra l'altro io l'ho visto, e alla fine quando hanno fatto vedere la foto del vero Italo sdraiato in chiesa, io mi sono commosso, sì, mi sono venute le lacrime agli occhi, perché io inizio a commuovermi dall'inizio, prima ancora che inizi la storia, io non so se riesco ad arrivare alla fine. Comunque bello, sì, sicuramente. Vedi, noi speriamo anche con questa trasmissione di far capire cose che magari uno non sa, non conosce delle realtà come queste, no? Il cane di quartiere è una cosa che forse ricordavo io da piccina, non essendo più di primo pelo, quindi avendo un po' di anni. E poi forse è una realtà che si vive di più nelle città un po' più piccole, non nelle metropoli grandi. Assolutamente, sì. Nei piccoli borghi, ad esempio, cioè voglio dire, non abbiamo un cane al centro storico di Ragusa in mezzo alle macchine. Chiaramente sono quartieri, zone, vicoli, eccetera, eccetera, dove comunque anche le automobili arrivano con difficoltà o comunque arrivano in maniera rallentata. Certo. Invece sui cani semiselvatici, anche su questo, nella nostra provincia, ripeto, sempre in maniera autonoma dalle istituzioni, perché le istituzioni qui non ci aiutano, anche sui cani semiselvatici, diciamo che la diffusione dell'educazione cinofila sta facendo passi da gigante, perché anche su questo, ad esempio, la lotta fra associazioni e l'ASP o altre istituzioni, uh-huh, è molto simile a quella che si fece 20 anni fa sulla sterilizzazione dei cani, sì, dei cani liberi. Cioè, no, le istituzioni non volevano sterilizzare i cani che erano randaggi, perché, sì, si diceva vabbè, ma noi come facciamo a prendere poi la responsabilità, è nostra, è del sindaco, il cane del... ora c'è più o meno la stessa situazione con appunto la presenza dei cani semiselvatici, che per alcuni rappresentanti dell'istituzione è meglio ignorare, nel senso che siccome, okay, li ignoriamo, non esiste. Allora, Biagio Battaglia, io la ringrazio, teniamo con noi invece, grazie, Paola, mille, con la quale parleremo tra poco di come salvaguardare i nostri bambini. Grazie mille a Biagio Battaglia e alla LAV di Ragusa. Ricordiamo, il randagismo può essere una risorsa, contattate le sedi LAV e le associazioni del posto in modo da poter creare un dialogo con le istituzioni. Grazie, grazie mille. Grazie, Biagio. Ci vediamo fra poco. Grazie a voi. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci qua, siamo rimasti in linea, abbiamo tenuto in linea Paola De Lucia, che è ancora con noi. Ci sei, Paola? Sì, sì, sono qui. Paola De Lucia, educatore cinofilo ragusano, quindi insomma l'abbiamo chiamata per avere info sul territorio. Ci ha detto che sta facendo un corso per i bambini, proprio sulla scia, no, di quello che è accaduto, perché i bambini possono essere più consapevoli. Più consapevoli, esatto, sì, corre meno, esatto, rischi anche con il cane. Visto che ci sono i genitori che non li educano più a questo, diventeranno, ecco, più maturi i bambini. Mi raccomando, perché da tutte le notizie, esatto, che voi sentite, una condizione che c'è sempre quando il bambino viene morso dal cane è che non c'è supervisione, cioè il bambino lasciato da solo, soprattutto col cane che non è della sua famiglia ma è dello zio, del nonno o del vicino di casa, corre un bel rischio, okay, quindi questa è la ricetta per far mordere un bambino, evitatela. Paola invece ci dice cosa dovrebbe fare un bambino o evitare di fare per un buon approccio al cane. Sì, sicuramente. Allora, punto numero bambino... uno. Numero uno, il bambino dovrebbe imparare a controllare, a modulare i toni di voce. Davanti, okay, al cane non si grida, non si grida, parla con toni di voce bassi, non si grida, lo si mette in difficoltà. Perfetto. Si mette in difficoltà un adulto, figurati un cane. Infatti, assolutamente sì. Secondo punto. Secondo punto, il movimento. Dovremmo insegnare ai bambini a controllare e modulare i movimenti. Si evita di gesticolare con le braccia e con le mani davanti ad un cane. E si evita di correre. Si evita di avere movimenti rapidi e veloci. No, corsa, no gesticolazione rapida non e veloce. Gesticolazione, nevrotica, frenetica. Terzo punto. Terzo punto, riuscire a mantenere una distanza di sicurezza, non fiondarsi sul cane, ma fermarsi alla distanza almeno di un metro per essere sicuri che l'approccio, l'avvicinamento non sia rischioso. Ecco, perfetto. Dunque siamo al terzo punto. Qual quarto è il quarto? Punto. A questo punto dovremmo insegnare una cosa fondamentale ai bambini, che purtroppo io stesso sperimento spesso quando vado in giro con i miei cani, che non accade, quello di chiedere il permesso al proprietario di accarezzare il cane. Cioè, quindi bambini all'ascolto, quando vedete un cane che vi piace, chiedete al proprietario, posso accarezzarlo? Posso accarezzare il cane. Ieri i bambini con cui abbiamo lavorato hanno ripetuto questa scena quasi teatralizzata con due cani, e hanno finalmente veramente interiorizzato il valore di questa domanda. Vedi. Poi qual è il quinto punto? Il quinto punto è avvicinarsi ai cani, soprattutto quelli che non conosciamo, avvicinarsi non secondo una linea diritta, ma facendo una leggera curva. Una curva. Questo fa sì che il cane percepisca un impatto diverso, assolutamente. Benissimo. Poi i bambini non minacciosi, ma i bambini ovviamente a secondo della fascia di età verranno guidati in maniera adeguata a comprendere certi concetti. E poi abbiamo invece il livello ninja, cioè il bambino veramente bravo è quello a cui è stato insegnato a leggere gli stati emotivi del cane, no? Lo stato emotivo del cane, esattamente. Riesce a riconoscere, sempre ovviamente limitatamente a quello che un bambino può apprendere in questo senso, lo stato emotivo del cane. Se il cane è disponibile al contatto, alla relazione, ad essere accarezzato, o invece dà delle manifestazioni di evitamento, così come un po' si è trattato proprio giorni fa nell'incidente. Il cane aveva scelto di andare via, esatto. Il bambino l'ha inseguito. E poi se avesse saputo. Poi abbiamo il livello 7 super ninja, il bambino che dopo che impara tutte queste cose va dai genitori e gli dice: ma perché cazzo non me le hai insegnate tu tutte queste cose? Perfetto, uno dei nostri obiettivi è proprio quello, che portino a casa un bagaglio di conoscenze che purtroppo i genitori, il più delle volte, non hanno. Ma meno male ci siete persone come te, Paola, e anche come Biagio Battaglia della Lava. Allora ti ringraziamo tanto di essere stata con noi oggi. Grazie. Magari ci sentiamo presto. Buon lavoro lì a Ragusa. E buon lavoro. Grazie Paola. Buon lavoro anche a voi. Ciao, e nel frattempo, visto che si avvicina l'ora del magnà, abbiamo con noi Mara Di Noia. Con piatti e ciotole. Mara! Ciao! Mara. Buongiorno a tutti. Buongiorno che a tutti. Si mangia oggi? Che si mangia? Abbiamo una fame. Allora, oggi mangiamo una crocchetta veg. Wow! Crocchetta veg. Una crocchetta veg. Molto molto gustosa. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che il piatto di Mara va bene sia per noi che per i cani che per i gatti che abbiamo a casa, con delle piccole modifiche magari poi nel momento di metterlo nella ciotola, ma fondamentalmente tu cucini una volta per tutti la nostra pappa condivisa, la meraviglia di cucinare per una famiglia intera, anche allargata ai nostri animali. Bene, allora come si fa questa crocchetta? Allora, abbiamo bisogno di 2 manciate di fogli di spinaci novelli, di 200 grammi di quinoa già sciacquata e lessata, un cucchiaio di amido di mais, un pizzico di cumino in polvere, un mezzo cucchiaino di semi di cumino, 2 cucchiai di olio extravergine, il succo di mezzo limone e un pizzico di sale. Aggiungiamo anche 2 cucchiai di lievito alimentare, poi vi racconto cos'è. Per la salsa che useremo per il piatto, ci occorrono 100 ml di yogurt bianco di soia, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaino di erba cipollina sminuzzata e due cucchiaini di prezzemolo sminuzzato. Tra l'altro, aspetta, che c'è Rosetta che alza gli occhi al cielo perché io ti ho interrotto. Però, visto che io ho provato a prendere appunti e non è facile, se volete andare a recuperare la ricetta, andate a vedere la nostra sezione di podcast sul e sito. E non solo, andate anche sul sito eventualmente di Mara, che è www.vegachef.it, giusto? Sì, è giusto, okay, giusto. Okay. Continua, che mi ha interrotto la goduria. Allora, cuocere gli spinaci in poco olio fino a quando saranno appassiti. A questo punto uniamo tutti gli altri ingredienti, tranne quelli per la salsa, regoliamo con il pizzico di sale. Questo composto va frullato, ma ci metterete veramente 30 secondi, e conservato in frigorifero per 20 minuti, il tempo di farlo rassodare. Con questa ricetta si ottengono 4 polpette schiacciate, 4 crocchette, che si cuoceranno in padella o in forno per pochi minuti, perché in realtà poi è già tutto cotto. Mescoliamo poi gli ingredienti della salsa con un pizzico di sale e si può servire come accompagnamento per il piatto, mentre per la nostra ciotola cosa faremo? Spezzettiamo la crocchetta e aggiungeremo i soliti soffiati di cereali o qualsiasi altro cereale che abbiamo già cucinato magari nei giorni precedenti. È una ricetta molto leggera ma molto nutriente, perché la quinoa è uno pseudo cereale in realtà, ma ricchissimo di proteine, per cui con questi tipi di ricette non avremo mai quella carenza di nutrienti che un po' ci viene indotta quando facciamo dei cambiamenti alimentari. Perfetto. Ci viene la paura di avere delle carenze. Grazie Mara Di Noia. Grazie Mara, ci vediamo tutte le domeniche. Vi ricordo, se volete scriverci chiedimi se sono felice @di24.it, risentire le ricette di Mara Di Noia sia sui podcast di Radio 24 che su www.vegachef.it. un abbraccio, a presto, ciao ciao a tutti.